fra 5 minuti la finale regionale del campionato di Poetry Slam, l'IPS, la Lega Italiana Poetry Slam, a cura di Fumo Fonico. Iniziate pure a entrare. Buon bacio. Praticamente sia bello.